Bene, quindi non ci siano grossi problemi. Bravo, d'accordo. Ok, eccoci qua. Grazie innanzitutto, come al solito, a Mario Diani per la disponibilità. Abbiamo raggiunto telefonicamente lui per continuare a parlare di Catalogna, anche se indirettamente. Per iniziare con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa e di Radio Euskadi in particolare, Mario, ti chiedo la cortesia di fornirci qualche elemento che ci aiuti a capire di cosa ti occupi, tanto per cominciare, ecco. Sociologia all'Università di Trento e nel passato ho insegnato anche per 2 anni, fra il 2010 e il 2012, all'Università Pompeu Fabra a Barcellona. Da come area tematica mi occupo soprattutto di movimenti sociali e di partecipazione politica e all'inizio specialmente della mia carriera, che ormai risale agli anni 80, mi sono occupato in modo particolare di movimenti etnonazionalisti, regionalisti, indipendentisti in Occidente. Poi me ne sono un po' staccato, diciamo che seguo a distanza, ma ovviamente invece la questione catalana l'ho seguita più direttamente anche perché coinvolge direttamente alcuni miei vecchi colleghi di Barcellona. Mario, abbiamo avvicinato te naturalmente in virtù, insomma, del fatto che il tuo nome compare tra quelli che hanno firmato più recentemente un appello, quello insomma promosso da Òmnium Cultural, Help Catalogna, e che insomma ci è sembrato interessante. Andare a capire le motivazioni principali. Aiutaci un po' a metterle in ordine, no? Che cosa un po' ti ha spinto? Avevi già precedentemente sostenuto altri tipi di appelli di questo tipo o diciamo almeno per Ma quanto. direi che io negli ultimi tempi, cioè, ultimi tempi intendo, gli ultimi 20 anni, credo di aver firmato pochissimi appelli, non ho una tendenza particolare a firmare appelli. In questo caso particolare la spinta è legata al fatto che una delle colleghe, una delle persone che sono state di recente incriminate in quanto facenti parte del comitato tecnico che aveva organizzato e supervisionato il referendum per l'indipendenza del dicembre dell'anno scorso, del 2017, quello dell'ottobre 2000, cos'era, dicembre 2017. Sì. Ecco, quel tipo di, una delle persone coinvolte è una mia vecchia collega di dipartimento e questo anche i colleghi mi hanno attirato l'attenzione. Devo dire che l'ho fatto anche con una certa convinzione, in quanto mi sembra che la risposta dello Stato spagnolo sia stata del tutto sproporzionata. Ecco, diciamo da questo punto di vista, pur non essendo, anzi forse a maggior ragione, non essendo un esperto, no? Usiamo questo termine che è un termine sempre un po' scivoloso perché poi non si capisce bene, no? Non ti occupi magari del tema né per quanto riguarda le tue linee di ricerche personali al limite, però immagino insomma al di là della questione personale tu abbia sicuramente un'opinione, no? Quali vicende, ecco, reputi particolarmente gravi di tutto quello che è avvenuto in Spagna? Cosa appunto. Lì ci sono stati alcuni passaggi cruciali. Uno è stato che ha contribuito molto a radicalizzare, è stato negli anni passati il ricorso del Partito Popolare, allora al governo c'era il primo ministro Mariano Rajoy, il ricorso appunto del Partito Popolare contro la modifica che era stata votata dallo stesso Parlamento, fra l'altro, della Costituzione, che ridefiniva e aumentava i margini di autonomia compresa della Catalogna. Quella decisione fu, quella riforma costituzionale fu cassata dalla Corte Costituzionale, dal Tribunale Costituzionale spagnolo a seguito del ricorso del Partito Popolare, che nel frattempo è andato al governo. Allora, quella era una riforma avviata prima dell'arrivo dei popolari al governo. Ora, questo ha creato chiaramente una radicalizzazione, ha aumentato, ha rafforzato gli argomenti di chi spingeva per una soluzione indipendentista. Successivamente, in termini molto più recenti, chiaramente il dato di fatto è stata la repressione molto pesante, anche violenta, del referendum stesso, con l'intervento massiccio della polizia e dei corpi delle forze antiterrorismo, antisommossa, in un contesto in cui non era questo, non mi sembrava giustificato. Ma la risposta è stata il referendum, è molto chiaro che il referendum non avesse valore legale, ed era altrettanto chiaro però che è una dimostrazione di una sensibilità, di un'attenzione politica molto forte. Nel momento in cui non era tutt'altro che un'iniziativa, diciamo così, marginale o di soggetti periferici, per un'iniziativa. Quando parliamoci chiaro, quando su una popolazione di 7 milioni, poco più di 7-8 milioni di abitanti, in cui su 5 milioni di votanti, 2 milioni si scomodano per andare a votare, sapendo benissimo che il voto sarà privo di conseguenze, per questo era evidente che il voto non avrebbe avuto conseguenze dirette, politiche marcate, questo è un segnale molto forte. Certo. Che andrebbe perlomeno, che andrebbe ascoltato, che suggerirebbe una risposta diversa da una repressione molto, molto, molto violenta. Questo lo trovavo. Dopodiché una serie di interventi che poi sono anche proseguiti, come appunto tu menzioni, con il mantenimento in carcere degli organizzatori del referendum stesso, e anche al di là di quando deve parlare Pellese, il fatto che non vi siano questioni di inquinamento delle prove, o quando è palese il fatto che queste persone non rappresentino una minaccia all'ordine costituito nell'immediato. Certo. Poi anche dal punto di vista, diciamo, di un sistema che inevitabilmente per la sua funzione di tipo come dire, repressivo, e non mi sembrava un intervento giustificato, ecco. Da questo punto di vista, ecco, ci interesserebbe anche poi magari ritorniamo, perché sono anche curioso di sapere la persona con la quale avevi avuto rapporti, se continui a averli, in che condizioni si trova, e se hai avuto modo più recentemente di avere anche proprio più informazioni più dirette in merito alla posizione di questa persona che conosci. Ma più in generale, invece, tornando sulla questione, su come, ecco, la questione catalana è arrivata in Italia, no? A noi continua a sembrare, non per voler perseguire chissà quali scoop giornalistici, no? Però un po' strana il disinteresse, no? Complessivamente per questa vicenda. Tu che opinione ti sei fatto? Diciamo, che cosa? Si potrebbe avanzare una spiegazione di tipo generale, pessimistica, sui tempi che corrono, vale a dire l'interesse generale in questo paese, e non solo in questo paese, per i temi dei diritti umani in questo momento estremamente basso, l'attenzione del pubblico e dei media per gli appelli non è estremamente bassa. Non si può dire che gli intellettuali o comunque i ricercatori godano di chissà quale prestigio pubblico, per cui le loro iniziative lasciano, dal punto di vista dell'opinione pubblica, il tempo che trova. Però questa è una spiegazione generale che tiene fino a un certo punto. La mia impressione, e questo qui si riaggancia anche alle motivazioni mie personali che mi hanno spinto a firmare questo appello, ma la mia impressione è che in realtà la questione sia estremamente complessa e non facile in interpretazione. Voglio dire, qui parzialmente capisco che posso apparire suonare contraddittorio, vale a dire, io ho firmato questo perché, ripeto, in reazione a una reazione, cioè così, in risposta a una reazione dello Stato spagnolo che mi sembrava francamente sproporzionata. Detto questo, però, devo confessare che la questione dell'indipendenza catalana è complicata, molto complicata per una serie di, elementi. Per esempio, il fatto che innanzitutto il fronte indipendentista non è affatto omogeneo, tu dici, necessariamente progressista, né automaticamente, per esempio, orientato su posizioni che anche una sinistra, per quanto moderata, possa automaticamente condividere, vale a dire il partito principale indipendentista catalano, che è quello che ha espresso anche Puigdemont, il presidente, è sostanzialmente, ed ha avuto politiche fondamentalmente di tipo neoliberista, vale a dire, non è un partito che, per esempio, possa automaticamente, non è una strategia che possa automaticamente attirare la simpatia e l'attenzione di un pubblico che tendenzialmente si collochi a sinistra. Va anche detto, loro hanno, pur essendo innegabile il fatto che dentro il movimento indipendentista catalano ci siano componenti di sinistra, questo è indubbio, però certamente, e va anche ricordare, questo non vale per il partito principale, che all'epoca si chiamava Convergence Union. Adesso, voglio dire, quello che anche va tenuto conto è il fatto che in realtà che l'errore, secondo me, strategico del Partito Popolare di ricorrere alla Corte Costituzionale, di fare abrogare la revisione degli statuti di autonomia, e quindi di riattizzare, per così dire, risollevare, radicalizzare la questione, è stata, ha giocato moltissimo nelle mani degli indipendentisti, perché nel momento del movimento degli indignados del 15 di maggio del 2011 erano in una posizione di notevole difficoltà politica anche all'interno della Catalogna, vale a dire, erano sotto assedio sostanzialmente da parte del movimento degli indignados, eccetera. Hanno avuto la capacità di, utilizzando l'appello indipendentista, di trasformare una situazione di difficoltà, per cui paradossalmente nel giro di qualche mese si è passati da una situazione in cui decine di migliaia di persone assediavano, come hanno fatto il Parlamento catalano, per in segno di protesta contro le politiche neoliberiste del governo catalano, a una situazione qualche mese dopo in cui gli indipendentisti, lo stesso partito che aveva implementato quelle stesse politiche, marciava alla testa della protesta contro Madrid. Ma da questo punto di vista, questo ha creato delle ambiguità. Poi ci sono all'interno della stessa Catalogna, ci sono molti settori anche di, io credo che questo sia uno, anche molti settori che sono scettici rispetto all'indipendentismo. Devo dire, se io fossi stato in Catalogna in quel momento e avessi potuto votare nel referendum, non credo che avrei votato per l'indipendenza. No, ma infatti qui, diciamo, un'altra questione, ragione per cui secondo me il tema è difficile da trattare, riguarda la questione del rapporto con l'Europa. Mm-hmm. Cioè la Catalogna, certo, così come la Scozia prima, è una fortissima fonte di imbarazzo. E questo, infatti per un certo periodo il sostegno maggiore anche sia agli indipendentisti scozzesi che ai catalani, anche in Italia, non è arrivato dalla sinistra, ma è arrivato, se ricordo bene, da Salvini. Certo. Allora, però, oltre un certo limite, questo credo che sia anche una ragione per cui un dibattito aperto sulla questione catalana non abbia decollato. Certo, per le difficoltà, i cortocircuiti, tu dici che può Sì, ma è una situazione paradossale, perché da un lato chiaramente l'Unione Europea si basa su equilibri estremamente delicati e che sono fondamentalmente ancora dettati dalle relazioni tra Stati. Per cui la minaccia, per cui quello che viene che venga percepito è una minaccia alla integrità di uno dei membri dell'Unione, e rappresenta un problema, che è paradossale per altri versi. Le migliori chance dell'Unione Europea sarebbero precisamente quella di costituirsi probabilmente come a continuare ad assegnare un peso fortissimo agli stati centrali. Però questa qua è una, questa, ripeto, anche una la mia sensazione è che al momento la questione catalana sia vista soprattutto come una fonte di problemi ulteriori che già si aggiungono a quelli di coesione attuale dell'Unione Europea, che ben poca gente ha voglia, dico ben poca gente fra chi ha a cuore la sopravvivenza dell'Unione Europea ha interesse a sollevare in questo momento. Questa è la mia, questa sarebbe anche l'altra mia impressione. Certo, noi insomma, a noi un po' stupito, più anche facendo una lettura più superficiale e immediata, che proprio il numero delle persone che hanno sottoscritto l'appello negli ambienti accademici italiani fosse estremamente ridotto rispetto ad altri paesi. E oltretutto anche che proprio tolto il tuo caso, praticamente quasi la totalità delle persone che l'hanno sottoscritto in questo momento non si trova neanche in Italia ma all'estero a lavorare. Potremmo qui avventurarci in una semplificazione, insomma, no? Sullo stato dell'università italiana e le difficoltà all'interno dell'università italiana di alimentare alcuni dibattiti, ma non lo faremo, ti garantiamo che ma mi sembra che questo ci porti molto, molto lontano. Onestamente, ci sono altre. Devo dire, è indubbio che in questo momento, ma non è solo un problema dell'università, in questo momento c'è una forte difficoltà nel nostro paese a sviluppare qualsiasi forma di discorso, di dibattito pubblico, cioè, onestamente, che non sia puramente dettato dalle contingenze, dalla quotidianità o da polemiche di bassa lega, per cui temo che da questo punto di vista il disinteresse per la Catalogna, ripeto, sia in parte legato a questo, in parte legato al fatto che in realtà non c'è stato un. Non è che non si sia parlato della cosa, noi a Trento, per esempio, se ne è parlato, però c'è anche da dire che molti accademici che hanno connessioni con la Spagna hanno connessioni con altre regioni della Spagna e non hanno una particolare attenzione. Credo che comunque abbiano giocato gli elementi che ho segnalato prima, la sensazione che la carta così indipendentista sia stata in parte giocata, soprattutto in termini strumentali, sia da una regione che è estremamente ricca rispetto al resto della Spagna, quindi credo che in Italia sia passato molto molto la tesi che individua nel separatismo catalano fondamentalmente una forma di separatismo egoista. Sì, sì, sicuramente in qualche modo credo che sia stato più molte, io penso, almeno ho un'impressione, ripeto, non ho approfondito il tema, che molte persone si siano, come dire, tirate indietro rispetto alla questione perché non riuscivano a interpretarla in termini chiari e ripeto, se non fosse anche stata per ragioni, diciamo, semplicemente di più legate alla natura dell'intervento, alla portata dell'intervento repressivo e a contatti di colleganza personale, il mio rapporto diretto, credo che io stesso probabilmente mi sarei astenuto da prendere una posizione molto, molto forte. Certo. Perché, ripeto, obiettivamente non sarei in grado di esprimere in questo momento. Certo, no, certo, sicuramente, diciamo, ecco, il tipo di risposta repressiva che si è attuata immediatamente dopo il referendum e poi ancora nei mesi successivi, tuttora in un quadro comunque più complessivo anche di ridefinizione anche all'interno dello Stato spagnolo, più in generale della agibilità politica, pensiamo alla legge, insomma, sulla, tra virgolette, libertà d'opinione, più volte denunciata dai movimenti sociali anche all'interno della Spagna stessa, no? Io credo che almeno noi, insomma, in questi mesi abbiamo provato anche a dire, a sostenere che forse più in generale proprio la Spagna e altri territori godono forse di una legittimità democratica la stessa Unione Europea per certi versi che in qualche modo paralizza, se vogliamo, quel livello di dissenso che sarebbe forse più legittimo aspettarsi, date le politiche che vengono poi effettivamente impiegate. Detto questo, insomma, io credo, crediamo che il dibattito sia invece utile, ragionare con te lo è stato sicuramente, questa vicenda nel nostro paese ha sicuramente pagato una difficoltà che è legata anche alla questione del classico, della classica polarizzazione tra europeismo e sovranismo e Infatti. all'interno di questi due termini di una difficoltà a collocare processi che probabilmente hanno maggiori sfumature di quelle che a qualcuno piacerebbe avessero per poter poi utilizzare una bandiera piuttosto che l'altra, no? E quindi Sì, questa è anche la mia impressione. molto spesso questo complica poi il livello. Mario, ti ringraziamo moltissimo del tempo che ci hai dedicato. E insomma, speriamo di risentirci anche per altre questioni e di confrontarci sicuramente anche su altri temi. A Grazie a voi. presto.